Sogno un palazzo, lo voglio per me. E poi sorrido in tutte le storie. Vivo una vita davvero cliché, un po' da ribelle. Ma cerco solo e soltanto l'amore. Dai. Mi chiamo Greta, più tette di te. Yeah. Sogno gemelli, dormo due ore. Va già di corsa sì fino alle tre, povera me. Che poi ci credo che esista l'amore. Non prendo sonno se mi insulti nei direct. Le labbra lasciale stare, che se mi incontri per strada c'è il rischio che ti piaccia pure stare qui un po' con me. E a me stare con te. Mamma, dai scusa, son fuori di me. Mamma, dai scusa, son fuori di me. Fuori. Mamma, dai scusa, son fuori di me. Fuori. Mamma, dai scusa, son fuori di me. Son fuori di me. Fuori di me. Sono l'oceano, ma in testa le stars. Tipo una sfera, se mi innamoro. Tieniti pure, sì, la tua metà, la tua metà. Che c'ho la nausea a girare di nuovo. Chi mi raggiunge, odio le tratte lunghe. Amo tutte le cose che somigliano a un hamburger. L'universo è solo guai. Creda una foto con me, te la fai. No, con te mai. No, con te mai. Non prendo sonno se mi insulti nei direct. Le labbra lasciale stare, che se mi incontri per strada c'è il rischio che ti piaccia pure stare qui un po' con me. E amo stare con te. Mamma, dai scusa, son fuori di me. Mamma, dai scusa, son fuori di me. Fuori. Mamma, dai scusa, son fuori di me. Fuori. Mamma, dai scusa, son fuori di me. Fuori di me. Fuori di me. Vorrei una destinazione che non fosse Marte. Se smetti di parlare, io mi godo le comete. Vorrei potermi esprimere siccome un desiderio. E non ci voglio credere che questo è tutto vero. Oh mio Dio. Mamma, dai scusa, son fuori di me. Mamma, dai scusa, son fuori di me.